It's PK. Cuore di latta e occhi di vetro, qua servono gli occhi di dietro. 2013 faccio 10 cose al giorno, di cui 8 di vieto. Vivo tra i serpenti, si nascondono bene ma purtroppo li vedo. Vorrei che la gente pensasse, è troppo quello che chiedo. Quando questi qua li hanno messi là, la mia nazione hanno resti ca. Siamo diversi fra, credo molto più al mio universo che all'università. Dicevano senza diploma avrai un futuro esile. Adesso faccio uno show e prendo lo stipendio del preside. Non vivo in un resident, alzo i decibel, da ragazzino mi dicevano siedite. Ho sempre fatto l'opposto e adesso mi chiedono le dediche. Ma davvero quello all'ultimo banco erite? Davvero adesso più di 150 canzoni edite. Sempre stato convinto di tutto quello che ho spinto. Vendicato chi è stato sconfitto. Meritato quello che ho vinto. Self-made, self-made. Da tutto fatto da solo. Solo prendo le distanze da loro. Loro mi distacco dal suono. Mi chiedo la gente come fa ad accettare la disonestà. Ogni giorno nella mia città ci guardo in faccia questi qua e la metà sembra che hanno gli occhi di vetro. Hanno gli occhi di vetro. Ogni giorno li guardo e sembra che hanno gli occhi di vetro. Hanno gli occhi di vetro, sembra che hanno gli occhi di vetro. Ogni giorno li guardo e sembra che hanno gli occhi di vetro. Come mandarli in crisi? Chiedi che fanno nella vita. Poi guarda i visi con l'aria smarrita in cerca di risposte easy. Come fa il gioco chi ha le doti fisiche? Non lo sai. Come lei che ha le curve del mare dentro l'iride. Bankroll con gemitai, tu che mi dai? I tuoi genitali, i tuoi genitori sanno che sei brava. Sì. Non ti sembrava opportuno mostrargli la tosse e la bava? No. Credevano fosse tranquillo in città, al verde se fosse la cava. Sì, mantenendo chili, facendo bocchini. Mi chiedo la gente come fa a raccontare quello che non sa. Niente. Non sono come i miei commensali, no, no. Non penso ai mensili, sogno bilanci annuali. Occhi di vetro fragili, comportamenti facili. Altri poi sono antiproiettili e guardano intorno tipo rettili. Sì. Io qua ci ritorno, ma tu promettimi, se sarò vecchio arriverà il momento. In petto niente se spento, sarai allo specchio che ti petti. Sarai lì. Mi chiedo la gente come fa ad accettare la disonestà. Ogni giorno nella mia città ci guardo in faccia questi qua e la metà sembra che hanno gli occhi di vetro. Hanno gli occhi di vetro. Ogni giorno li guardo e sembra che hanno gli occhi di vetro. Hanno gli occhi di vetro, sembra che hanno gli occhi di vetro. Ogni giorno li guardo e sembra che hanno gli occhi di vetro.